Cantine di Franciacorta. Bentrovati, siamo oggi a Timoline di Cortefranca, ospiti della Cantina Bosio, 100.000 bottiglie prodotte ogni anno, di cui 80.000 Franciacorta e 20.000 vini fermi Cortefranca, azienda di tradizione familiare, la cui filosofia Cesare Bosio sintetizza così. Il nostro Franciacorta, come tutti i Franciacorta, è particolare perché ogni produttore e ogni viticoltore è una persona, quindi ha una sua particolarità, e questo sicuramente poi viene trasformato e viene comunicato nel vino. Personalmente dedichiamo la massima attenzione e crediamo che la qualità del nostro Franciacorta venga fatto in vigna. Ogni vigna è un quadro a sé, è un'opera d'arte a sé, e interpretare quello che la vigna assieme al terroir e al clima ci dà, dà le caratteristiche e dà questo grande prodotto che è Franciacorta. È tutto, alla prossima tappa! Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.